Anna dai capelli rossi di Lucy Maud Montgomery. Capitolo 1. Una sorpresa per la signora Lind. La signora Rachel Lind abitava nel punto esatto in cui la via principale di Avonlea scendeva in un piccolo avvallamento costeggiato da ontani e fucsie e attraversato da un torrente la cui fonte era nascosta lontano nei boschi della vecchia tenuta Cuthbert. Quel torrente era serpeggiante e precipitoso nella prima parte del suo percorso tra quei boschi, pieno di oscuri segreti fra pozze e cascatelle. Ma quando raggiungeva Lind's Hollow, la valletta dei Lind, era ormai un tranquillo ruscello ben educato, perché neppure un torrente poteva permettersi di passare davanti alla porta della signora Rachel Lind senza il dovuto riguardo per la decenza e il decoro. Con tutta probabilità sapeva che la signora Lind se ne stava sempre seduta davanti alla sua finestra a osservare con occhio vigile ciò che passava di lì, dai ruscelli ai bambini, e se notava qualcosa di strano o fuori posto, non si dava pace finché non riusciva a scoprirne il come e il perché. C'è tanta gente ad Avonlea e anche fuori, che si occupa con estrema cura degli affari dei vicini, anche a costo di trascurare i propri. Ma la signora Rachel Lind era una di quelle fantastiche persone capaci di gestire sia i fatti propri che quelli altrui. Era una massaia di rango, lei. I mestieri in casa sua venivano sempre fatti presto e bene. La signora dirigeva il circolo del cucito, dava una mano alla scuola domenicale di catechismo ed era una delle colonne portanti del gruppo di assistenza parrocchiale e del gruppo missionario. Ciò nonostante, la signora Lind trovava sempre tempo in abbondanza per passare ore e ore seduta davanti alla finestra della cucina a sferruzzare coperte di cotone. Ne aveva già fatte 16, erano solite mormorare con tono reverente le casalinghe di Avonlea, e a tenere costantemente d'occhio la strada che attraversava la valletta e serpeggiava su per la collina rossa dall'altra parte. Dal momento che Avonlea occupava una piccola penisola triangolare che si protendeva nel golfo di St. Lawrence ed era circondata dall'acqua su due lati, chiunque volesse entrare o uscire dalla cittadina doveva per forza percorrere quella strada di collina e quindi sottoporsi all'invisibile fuoco incrociato dell'acutissimo occhio sempre in azione della signora Lind. La donna era seduta al suo posto anche quel pomeriggio all'inizio di giugno. Il sole entrava attraverso la finestra, caldo e splendente. L'orto sul pendio, subito sotto la casa, era un'esplosione di fiori rosa e bianchi, come il velo di una sposa, sopra i quali ronzavano miriadi di api. Thomas Lind, un ometto mite che tutti ad Avonlea chiamavano sempre solo il marito di Rachel Lind, stava spargendo gli ultimi semi di rapa nel campo in pendenza oltre il fienile. E Matthew Cuthbert avrebbe dovuto essere a seminare i suoi nel grande campo di terra rossa lungo il ruscello che si estendeva verso Green Gables, la fattoria dai tetti verdi. La signora Lind lo sapeva perché la sera prima nel negozio di William J. Blair a Carmody l'aveva sentito dire a Peter Morrison che il pomeriggio seguente aveva in mente di seminare le rape. Era stato Peter a chiederglielo, naturalmente, perché in tutta la vita Matthew Cuthbert non aveva mai parlato di qualcosa che lo riguardasse di sua spontanea volontà. E invece, eccolo là, Matthew Cuthbert, alle 3:30 del pomeriggio di un giorno lavorativo, che guidava placido giù per la valletta e su per la collina. Per giunta, indossava il colletto bianco e il suo completo migliore, il che era la prova provata che andava in città. Inoltre aveva preso il calesse e la cavalla Saura, e questo indicava che avrebbe percorso una distanza considerevole. Ora, dove se ne stava andando Matthew Cuthbert e perché? Se si fosse trattato di qualsiasi altro uomo di Avonlea, la signora Rachel Lind, mettendo abilmente insieme questo e quello, sarebbe riuscita a intuire la risposta a entrambe le domande in 448. Ma Matthew si allontanava così di rado da casa che l'urgenza doveva essere davvero in attesa e pressante. Era un uomo di una timidezza infinita e detestava trovarsi fra estranei o in qualsiasi posto dove ci fosse il rischio di dover parlare. Matthew, elegante con quel colletto bianco e alla guida di un calesse, non era una visione da tutti i giorni. E per quanto si arrovellasse, la signora Lind non riusciva a capirci niente e questo le rovinò il pomeriggio. Vorrà dire che dopo il tè farò quattro passi fino a Green Gables per farmi raccontare da Marilla dove è andato e perché, concluse la rispettabile signora. In genere non va in città in questo periodo dell'anno e non va mai in visita. Se fosse rimasto senza semi di rapa, non si sarebbe certo vestito in quel modo, né avrebbe preso il calesse. Non procedeva così veloce da far pensare che stesse andando a chiamare il dottore. D'altra parte, deve essere successo qualcosa da ieri sera per farlo uscire di casa. La faccenda mi lascia molto perplessa. Ecco, e non avrò pace nella mente e nella coscienza fino a quando non avrò scoperto che cosa ha portato Matthew Cuthbert fuori da Avonlea oggi. Perciò, dopo il tè, la signora Lind uscì. Non doveva percorrere molta strada. La grande casa, dall'architettura irregolare in cui vivevano i Cuthbert, era circondata da un frutteto e si trovava appena a meno di un quarto di miglio da Lind's Hollow. Anche se in realtà il vialetto d'ingresso allungava la strada di parecchio. Il padre di Matthew Cuthbert, un uomo timido e silenzioso come il figlio, aveva costruito la sua casa il più lontano possibile dal resto del mondo, pur senza nasconderla nel folto del bosco. Green Gables, i tetti verdi, era sorta all'estremità del terreno disboscato della proprietà ed era ancora lì, a malapena visibile dalla strada su cui si affacciavano tutte in fila le altre case di Avonlea. Secondo Rachel Lind, stare in un posto del genere non era vivere. In un posto così si può al massimo sopravvivere, ecco, disse mentre percorreva il vialetto erboso e pieno di solchi bordato da cespugli di rose selvatiche. Non c'è da meravigliarsi che Matthew e Marilla siano entrambi un po' strani, sempre confinati qui dentro, da soli. Gli alberi non sono certo una gran compagnia, anche se qui ce ne sarebbero in abbondanza nel caso. Comunque io preferisco guardare la gente. Vero è che loro due sembrano abbastanza contenti, sarà perché ci sono abituati ormai. Ci si abitua a tutto, anche a essere impiccati, come dicono in Irlanda. A quel punto, la signora Lind era in fondo al vialetto d'ingresso e si infilò nel cortile dietro Green Gables, che era molto verde, pulitissimo e ordinato, costeggiato da una fila di grandi salici secolari da una parte e da una fila di pioppi impettiti dall'altra. Non c'era un ramoscello a terra, né si vedeva una pietra fuori posto, e alla signora Lind non sarebbero certo sfuggiti. Non l'aveva mai detto a nessuno, ma era convinta che Marilla Cuthbert spazzasse il proprio cortile più spesso di quanto lei spazzava in casa sua. Si poteva mangiare in quel cortile, tanto era lindo. Era impossibile trovarci perfino il proverbiale granello di polvere. La signora Lind bussò alla porta della cucina ed entrò quando le fu detto di farlo. La cucina di Green Gables era un locale allegro, o meglio, avrebbe potuto esserlo se non fosse stato così tremendamente pulito e ordinato da sembrare il salotto buono dove non entrava mai nessuno. Le finestre erano esposte a est e a ovest. Attraverso la finestra ovest che dava sul cortile e sul retro, la luce calda del sole di giugno inondava la stanza. Mentre quella est, dalla quale si godeva la vista dei ciliegi in fiore nella parte sinistra del frutteto, e sporgendosi anche quella delle alte betulle snelle giù nella valletta del torrente, era rinverdita da un groviglio di rampicanti. Era da quella parte che si sedeva Marilla Cuthbert, le rare volte che si sedeva, perché non si fidava del sole, che le sembrava troppo ballerino e irresponsabile per un mondo nato per essere preso sul serio. E lì era seduta in quel momento, impegnata nel suo lavoro a maglia, mentre alle sue spalle la tavola era già apparecchiata per la cena. Prima di aver chiuso con discrezione la porta, la signora Lind aveva già preso mentalmente nota di tutto ciò che c'era sul tavolo. I piatti erano tre, quindi evidentemente Marilla aspettava qualcuno, oltre a Matthew, per il tè. D'altra parte i piatti erano quelli di tutti i giorni e c'erano conserva di mele selvatiche e un solo tipo di torta, quindi l'ospite atteso non era particolarmente importante. Ma allora Come mai Matthew si era messo il colletto bianco e aveva preso la cavalla Saura? La signora Lind era davvero confusa da quell'incomprensibile mistero riguardo alla tranquilla e solitamente niente affatto misteriosa Green Gables. «Buonasera, Rachel!» la salutò con vivacità Marilla. «Che bella serata, non trova? Vuole sedersi? Allora, tutto bene a casa?» Un rapporto che, per mancanza di un'altra definizione, poteva essere chiamato amicizia. Esisteva ed era da sempre esistito tra Marilla Cuthbert e la signora Rachel Lind, nonostante la loro diversità, o forse proprio a causa di questa. Marilla era una donna alta e magra, spigolosa e senza un accenno di curve. I suoi capelli neri mostravano qualche striatura grigia ed erano sempre raccolti in un piccolo chignon compatto fissato dietro la nuca da due forcine di metallo. Dava l'impressione di essere una donna di poche esperienze e rigida nell'animo, ed era vero, ma intorno alla bocca le aleggiava una vaga espressione che, se solo si fosse sviluppata un po', avrebbe potuto rivelare un certo senso dell'umorismo. «Stiamo tutti bene, grazie», rispose la signora Lind. «Piuttosto mi sono preoccupata che lei stesse poco bene quando ho visto Matthew uscire oggi. Ho pensato che stesse andando a chiamare il dottore». Le labbra di Marilla si contrassero in un'espressione eloquente. Si era aspettata che la signora Lind si facesse viva. Sapeva benissimo che la vista di Matthew inspiegabilmente a passeggio sarebbe stata davvero troppo per la curiosità della vicina di casa. «Oh no, sto abbastanza bene, anche se ieri ho avuto un forte mal di testa», disse. «Matthew è andato a Bright River. Abbiamo preso un ragazzino da un orfanotrofio in Nova Scozia e sappiamo che arriverà con il treno di stasera». Se Marilla le avesse detto che Matthew era andato a Bright River a prendere un canguro in arrivo dall'Australia, la signora Lind non avrebbe potuto restare più sbalordita. Tanto che rimase senza parole per ben 5 secondi. Che Marilla la stesse prendendo in giro era escluso, ma la signora Lind era tentata di crederci. «Dice sul serio, Marilla?» domandò quando ritrovò il controllo della voce. «Certo, naturale», rispose Marilla, «come se adottare ragazzini da orfanotrofi in Nova Scozia facesse parte della normale routine primaverile di qualsiasi fattoria ben organizzata di Avonlea, anziché essere una novità inaudita». Alla signora Lind sembrava che le avessero dato una botta in testa. Tutti i suoi pensieri si concludevano con un punto esclamativo. «Un ragazzino! Fra tutti quelli che potevano farlo, Marilla e Matthew Cuthbert avevano deciso di adottare un bambino! E l'avevano preso in un orfanotrofio, cose dell'altro mondo. Non si sarebbe più stupita di niente dopo quella notizia, di niente. Si può sapere chi vi ha fatto venire in mente un'idea del genere?» domandò con aria di disappunto. «Avevano fatto tutto senza chiedere la sua opinione, quindi doveva disapprovare, per forza. Beh, ci stavamo pensando da un po', da tutto l'inverno in pratica», spiegò Marilla. «Poi un giorno, prima di Natale, è venuta a trovarci la moglie di Alexander Spencer e ci ha raccontato che in primavera avrebbe preso una bambina dall'orfanotrofio su a Hopetown, a una cugina che vive lì, e quando è andata a trovarla ha saputo tutto della questione. Così io e Matthew abbiamo cominciato a parlarne e alla fine ci siamo decisi. D'altra parte, lo sa anche lei, Matthew sta invecchiando, ormai va per i 60 e non è più vispo come una volta. Il cuore lo fa tribolare e sa anche lei quanta fatica si fa di questi tempi a trovare qualcuno che dia una mano nei campi. Ci sono soltanto quegli stupidi ragazzotti francesi, ma non fa in tempo ad assumerne uno e insegnargli il lavoro che quello se ne va a lavorare nella fabbrica di aragosta in scatola oppure in America. All'inizio Matthew voleva prendere un ragazzino della madrepatria, ma io ho rifiutato categoricamente. Saranno anche bravi ragazzi, non dico di no, ma in casa mia non voglio monelli londinesi. Gli ho detto, almeno dammi un ragazzino nato qui. Ci sarà qualche rischio in ogni caso, ovunque lo prendiamo. Ma sto più tranquilla e dormo meglio di notte con un canadese in casa. Così, alla fine abbiamo deciso di chiedere alla signora Spencer di portarne uno anche a noi, quando fosse andata a prendere la sua bambina. La settimana scorsa abbiamo sentito dire che stava per partire, quindi le abbiamo mandato un messaggio a Carmody tramite i contadini di Robert Spencer, che ne scegliesse uno sveglio, preferibilmente sui 10-11 anni. Ci sembra l'età più adatta, abbastanza grande da potersi subito rendere utile, con qualche incombenza, ma ancora abbastanza giovane da poter essere tirato su a dovere. Abbiamo intenzione di dargli una famiglia, una casa, un'istruzione. Proprio oggi abbiamo ricevuto un telegramma dalla signora Spencer. Ce l'ha portato il postino dalla stazione, in cui ci avvertiva dell'arrivo con il treno delle 5:30 di stasera. Perciò Matthew è andato a Bright River a prenderlo. La signora Spencer ci aveva detto che l'avrebbe fatto scendere lì dal treno, perché naturalmente lei prosegue fino alla stazione di White Sands. La signora Rachel Lind diceva sempre ciò che pensava e ne andava fiera. Lo fece anche stavolta, quando riuscì a riprendere la rotta dopo quella notizia che l'aveva lasciata a bocca aperta. Senta, Marilla, mi scusi, ma io glielo devo proprio dire. Secondo me state facendo una gran sciocchezza e rischiosa, per giunta. Non sapete chi vi arriverà in casa. Portate sotto il vostro tetto un piccolo estraneo, senza sapere assolutamente nulla di lui, senza conoscerne il carattere né come fossero i suoi genitori e nemmeno come potrebbe diventare da grande. Guardi, proprio la settimana scorsa ho letto sul giornale di un uomo e di sua moglie, su a ovest dell'isola, che avevano adottato un ragazzino che viveva in un orfanotrofio. E una notte quello ha dato fuoco alla casa e l'ha fatto di proposito, Marilla. Per poco i poverini non sono morti carbonizzati nei loro letti. E so di un altro caso, di un ragazzino adottato che si beveva tutte le uova che trovava senza che nessuno riuscisse a fermarlo. Se mi aveste chiesto un parere sull'argomento, cosa che non avete proprio fatto, Marilla, io ve l'avrei detto, per l'amor del cielo, di non pensarci nemmeno, ecco. Quell'inutile perorazione non sembrò né offendere né allarmare Marilla, che continuò imperterrita il suo lavoro a maglia. Non nego che ci sia del vero in ciò che mi sta dicendo Rachel. Anch'io mi sono fatta qualche scrupolo, a dire il vero, ma Matthew era decisissimo. Me ne sono resa conto e non ho insistito. È talmente raro che Matthew si intestardisca su qualcosa che, quando capita, mi sento sempre in dovere di dargli la vinta. Quanto ai rischi, beh, ce ne sono praticamente in qualsiasi cosa si faccia nella vita. Corrono dei rischi le persone che hanno figli loro, perché non è detto che vada tutto bene. E comunque la Nuova Scozia è piuttosto vicina all'isola. Non è come prendere un ragazzino dall'Inghilterra o dagli Stati Uniti. Non può essere tanto diverso da noi. Spero proprio che vada tutto bene, ecco, dichiarò la signora Lind, con il tono di chi si aspetta esattamente il contrario. Però poi non dica che non l'avevo avvertita se quello darà fuoco a Green Gables o avvelenerà il pozzo con la strichnina. Ho sentito parlare proprio di una storia del genere giù a New Brunswick. Un bambino dell'orfanotrofio l'ha fatto davvero e l'intera famiglia che l'aveva adottato è morta dopo un'atroce agonia. L'unica differenza è che in quel caso era una femmina. Beh, noi non abbiamo scelto una femmina, osservò Marilla, come se il fatto di avvelenare pozzi fosse una prerogativa esclusivamente femminile, e che questa eventualità non fosse dunque da temere, trattandosi nel loro caso di un maschio. Non mi sono neanche sognata di prendere una bambina da tirar su, e mi stupisco della signora Spencer che invece l'ha fatto. D'altra parte, quella donna sarebbe capace di adottare un orfanotrofio al completo senza fare una piega se le frullasse per la testa l'idea. La signora Lind avrebbe tanto voluto fermarsi ad aspettare il ritorno di Matthew con il suo orfanello di importazione, ma siccome sarebbero passate 2 ore buone prima del suo arrivo, decise di andare in fondo alla via da Robert Bell a raccontare quella sensazionale novità. Di sicuro avrebbe fatto scalpore, cosa che la signora Lind adorava. Così se ne andò. Con gran sollievo di Marilla, che a causa del pessimismo della signora Linda aveva sentito risvegliarsi tutti i dubbi e le paure che l'avevano assillata. Ma tu guarda cosa doveva succedere! Questa è bella! Sbottò la signora Rachel Linda quando fu di nuovo sul vialetto. Non ci posso credere! Però mi spiace proprio per quel povero ragazzino. Matthew e Marilla non sanno un bel niente di bambini e si aspetteranno che sia più saggio e tranquillo di suo nonno, sempre che ne abbia avuto uno. Il che è quantomeno improbabile. Che strano pensare a un bambino a Green Gables. Sembra quasi un miracolo. Non ce ne sono mai stati, visto che Matthew e Marilla erano già grandi quando è stata costruita la casa nuova. sempre che quei due siano mai stati bambini, che è davvero difficile da immaginare guardarli adesso. Non vorrei essere nei panni di quell'orfanello nemmeno se mi pagassero. Cielo, che pena che mi fa. Così, disse la signora Rachel Linda ai cespugli di rose canine dal profondo del cuore. Ma se avesse visto chi c'era ad aspettare con pazienza alla stazione di Bright River in quel preciso istante, la sua compassione sarebbe stata ancora più profonda e sentita. Capitolo 2. Una sorpresa per Matthew Cuthbert. Matthew Cuthbert e la cavalla trottarono per 8 miglia prima di arrivare a Bright River. La strada era bella. Correva tra fattorie ordinate e accoglienti, attraversando ogni tanto un boschetto di abeti balsamici o una valletta dove i pruni selvatici erano in fiore. L'aria era dolce per il profumo dei meli nei frutteti e i prati si perdevano all'orizzonte, immersi nella lieve foschia di porpora e perla. A suo modo, Matthew si godette la passeggiata, tranne nei momenti in cui incontrava una donna ed era costretto a rivolgerle un cenno di saluto, perché nell'isola di Prince Edward si è soliti salutare chiunque si incontri, che lo si conosca o no. Matthew temeva tutte le donne, a parte Marilla e la signora Rachel Lynde. Aveva sempre la sgradevole sensazione che quelle misteriose creature ridessero di lui, e aveva ragione a pensarlo, perché era un tipo dall'aria strana, il corpo sgraziato e lunghi capelli grigio ferro che gli arrivavano alle spalle un po' ingobbite, oltre a una folta, soffice barba castana che portava dall'età di 20 anni. In realtà, già a 20 anni somigliava molto a un uomo di 60, a parte il grigio dei capelli brizzolati. Quando arrivò a Bright River, non c'era traccia di treni. Matthew pensò di essere arrivato troppo presto, perciò legò la cavalla nello spiazzo davanti al piccolo hotel di Bright River e andò in stazione. Il lungo marciapiede era praticamente deserto. L'unico essere vivente che vide era una bambina seduta su un mucchio di sassi all'estremità della banchina. Matthew, che aveva notato a malapena che si trattava di una femmina, le passò accanto il più rapidamente possibile senza guardarla. Se l'avesse guardata non avrebbe potuto non notare la tensione e l'aspettativa nel suo atteggiamento e nella sua espressione. Era lì, seduta ad aspettare qualcosa o qualcuno, e dal momento che stare seduta ad aspettare era l'unica cosa che potesse fare, la faceva con tutte le sue forze, meglio che poteva. Matthew trovò il capostazione che stava chiudendo la porta della biglietteria, pronto a tornarsene a casa per la cena, e gli chiese se il treno delle 5:30 sarebbe arrivato presto. «Il treno delle 5:30? È già arrivato ed è ripartito mezz'ora fa», rispose brusco l'uomo. «Ma è scesa una passeggera che è stata lasciata qui per lei. È una ragazzina. Se ne sta là, seduta su quei sassi. Le ho proposto di entrare nella sala d'attesa per le signore, ma lei mi ha informato con aria grave che preferiva stare all'aperto. Ci sono più spunti per l'immaginazione, mi ha detto. È proprio un bel tipetto. Ma io non aspetto una bambina, ribatté Matthew perplesso. Sono venuto a prendere un maschio. Dovrebbe già essere qui. Lo doveva accompagnare la signora Spencer, che è andata a prenderlo in Nova Scozia per me. Il capostazione fischiò. Urca! Mi sa che c'è stato un errore, disse. La signora Spencer è scesa dal treno con quella ragazzina e me l'ha affidata. Mi ha riferito che stava in un orfanotrofio e lei e sua sorella l'avevate adottata. Mi ha detto anche che sarebbe arrivato lei a prenderla. Questo è quel che ne so io. Non ho certo altri orfanelli nascosti da qualche parte. Ma io non capisco, mormorò Matthew confuso. Avrebbe tanto voluto che ci fosse Marilla lì con lui ad affrontare quella situazione. Beh, sarà il caso che lei chieda alla ragazzina, gli suggerì il capostazione con noncuranza. Scommetto che è in grado di spiegarle tutto. Ha la lingua lunga, poco ma sicuro. Magari aveva inesaurito i maschi del tipo che volevate voi. E il ferroviere se ne andò senza battere ciglio. Stava morendo di fame. Così il povero Matthew fu lasciato solo a fare la cosa che per lui era più difficile che sfidare un leone nella sua tana, cioè avvicinarsi a una bambina, una strana bambina, una bambina orfana, e chiederle perché non era un maschio. Matthew si lasciò sfuggire un gemito silenzioso, ma si voltò e si avviò lentamente, trascinando i piedi lungo il marciapiede per raggiungerla. La bambina L'aveva seguito con lo sguardo fin dal momento in cui le era passato accanto e continuava a tenere gli occhi puntati su di lui. Matthew invece non la stava guardando, e se anche l'avesse fatto, non avrebbe visto com'era davvero. Un osservatore normale, al contrario, avrebbe visto una bambina di 11 anni con un vestitino troppo corto, stretto e brutto, di una flanella bianca ingiallita dal tempo. In testa aveva un cappellino alla marinara, di un marrone sbiadito, sotto il quale spuntavano due grosse trecce lunghe fino alla vita, di capelli decisamente rossi. Il faccino era piccolo, pallido e magro, coperto di lentiggini. La bocca era grande come gli occhi, che a seconda della luce e dell'umore diventavano verdi o grigi. Fin lì un osservatore qualsiasi. Un buon osservatore, invece, avrebbe potuto vedere che il mento della bambina era aguzzo e pronunciato, che i grandi occhi erano pieni di entusiasmo e vivacità, che la bocca era dolce ed espressiva, che la fronte, ampia, denotava intelligenza. Per farla breve, il nostro acuto osservatore avrebbe potuto concludere che non era certo un'anima ordinaria quella che abitava il corpo di quella bambina abbandonata di cui il timido Matthew Cuthbert aveva talmente paura da sembrare ridicolo. A Matthew comunque fu risparmiata la fatica di parlare per primo, perché appena fu certa che stava andando proprio da lei, la bambina balzò in piedi. Con una mano afferrò la maniglia marrone di una borsa di stoffa antiquata e consunta, mentre tendeva l'altra verso di lui. «Suppongo che lei sia il signor Matthew Cuthbert di Green Gables, giusto?» chiese con una voce particolarmente dolce e chiara. «Sono molto contenta di vederla, signore. Stavo cominciando a temere che non sarebbe venuto a prendermi e mi immaginavo già tutte le cose che potevano essere accadute per impedirglielo. Avevo anche pensato che se lei non fosse venuto a prendermi prima di sera avrei potuto camminare fino a quel grande ciliegio selvatico che c'è sulla curva e arrampicarmi fra i rami per passare la notte. Non avrei certo avuto paura e sarebbe stato bello dormire circondata dalla chioma bianca di un ciliegio in fiore sotto i raggi della luna, no? Avrei potuto immaginare senza problemi di stare in una grande sala di marmo, no? E comunque ero sicura che sarebbe venuto a prendermi in mattinata se non fosse venuto stasera. Matthew aveva preso goffamente la piccola mano ossuta nella propria e aveva immediatamente deciso cosa fare. Non poteva dire a quella bambina dagli occhi splendenti che c'era stato un malinteso. L'avrebbe portata a casa e avrebbe lasciato che fosse Marilla a occuparsene. In ogni caso non poteva abbandonare la piccola Bright River, qualunque fosse il problema o l'errore commesso, perciò tutte le domande e le spiegazioni potevano essere rimandate al momento in cui lui fosse stato di nuovo tranquillo e al sicuro a Green Gables. «Mi spiace per il ritardo», disse timidamente. «Vieni con me, la cavalla è in quel cortile. Dammi la borsa». «Oh no, posso portarla io», rispose allegramente la bambina. «Non è pesante. Contiene tutti i miei beni terreni, ma non è pesante. E se non la si porta in un certo modo, la maniglia si stacca, quindi è meglio che la tenga io perché ci sono abituata e so come funziona. È vecchissima questa borsa di stoffa. Comunque sono molto felice che lei sia arrivato, anche se sarebbe stato bello dormire fra i rami fioriti di un ciliegio selvatico. Abbiamo un bel pezzo di strada da fare, vero? La signora Spencer mi ha detto che sono 8 miglia. Sono contenta perché adoro viaggiare. Oh, per me è davvero meraviglioso venire a vivere con voi e far parte di una famiglia. Io non ho mai fatto parte di nulla. Non sono mai appartenuta a nessuno. Non davvero. La cosa peggiore era l'orfanotrofio. Ci sono stata soltanto per 4 mesi, ma mi sono bastati. Scommetto che lei non ha mai vissuto in un orfanotrofio, quindi probabilmente non può capire com'è. Peggio di quanto possa immaginare. La signora Spencer diceva che ero cattiva a dire queste cose, ma non era mia intenzione. Purtroppo è facile dire cattiverie senza volere. No, in realtà là erano buoni, all'orfanotrofio intendo, ma ci sono così pochi spunti per l'immaginazione. In un orfanotrofio, gli altri orfani, nient'altro. Beh. In fondo era abbastanza interessante fantasticare su di loro, immaginare che forse la bambina seduta accanto a te in realtà è la figlia di un conte strappata ai genitori quando era ancora neonata. da una bambinaia crudele che è poi morta prima di poterle confessare la verità. Ho trascorso tante notti sdraiata nel mio letto a inventare storie come questa perché di giorno non avevo tempo da dedicare ai castelli in aria. Mi sa che è per questo che sono così magra. Perché sono terribilmente magra, vero? Pelle e ossa. Oh, come mi piacerebbe essere bella ciccia, con le fossette sopra i gomiti. A quel punto la compagna di Matthew smise di parlare. Un po' perché era senza fiato e un po' perché erano arrivati al calesse e non disse una parola finché non furono fuori dal villaggio. Percorsero una strada in discesa, piuttosto ripida, scavata così in profondità nel terreno soffice che le banchine, fitte di ciliegi selvatici e sottili betulle bianche, sovrastavano le loro teste di diversi piedi. La bambina allungò la mano e spezzò un ramoscello di pruno selvatico che sfiorava la fiancata del calesse. Non è bellissimo? Cosa le fa venire in mente quell'albero che sporge dal terrapieno, tutto bianco e vaporoso come un pizzo? Chiese. Beh, ecco, non saprei, rispose Matthew. Una sposa, ovvio. Una sposa vestita di bianco, con un meraviglioso velo lieve come la nebbia. Io di spose non ne ho mai viste, ma non faccio fatica a immaginarla. Sì, lo so, io non sarò mai una sposa. Sono talmente semplice e insignificante che nessuno vorrà mai sposarmi, tranne forse un missionario straniero, perché immagino che i missionari stranieri non vadano tanto per il sottile, no? Però spero proprio di poter avere un abito bianco un giorno o l'altro. È questa la mia idea di paradiso in terra, perché i bei vestiti mi piacciono proprio tanto e che io ricordi non ne ho mai avuto uno in vita mia. D'altra parte non bisogna mai perdere la speranza, no? E posso sempre immaginarmi con vestiti stupendi. Stamattina, quando ho lasciato l'orfanotrofio, mi vergognavo di uscire con questo vecchio vestito di flanella che è davvero orrendo. Però, sa, tutti gli orfani avevano questa divisa. L'inverno scorso un mercante di Hopetown ha regalato all'orfanotrofio 300 yard di questa stoffa. Qualcuno diceva che l'ha fatto solo perché non riusciva a venderla, ma io invece penso che il suo sia stato un gesto gentile, fatto col cuore, no? Quando siamo salite sul treno, avevo la sensazione che tutti mi guardassero e mi compatissero. Perciò mi sono messa all'opera e ho cominciato a vedermi con il più bel vestito di seta azzurra che si potesse immaginare, perché già che fantastichi, tanto vale farlo su qualcosa che ne valga la pena. E con un grande cappello, tutto pieno di fiori e piume, e poi un orologio d'oro e un paio di guanti di capretto e stivaletti. E così mi sono consolata in fretta e mi sono goduta il più possibile il viaggio verso l'isola. In nave non ho avuto la nausea, neanche per un attimo, e nemmeno la signora Spencer, che di solito ne soffre, ma ha detto che non aveva tempo di star male perché doveva stare attenta che non cadesse in mare. Ha detto anche che non ha fatto altro che corrermi dietro perché continuavo a gironzolare. Però, se così si è risparmiata la nausea, è un bene che io fossi sempre in movimento, no? Volevo vedere tutto del traghetto perché non sapevo se avrei avuto un'altra occasione. Oh, guardi! Ci sono tantissimi ciliegi in fiore. Quest'isola è il posto più fiorito che io abbia mai visto. Già l'adoro questo posto e sono così felice di venire a vivere qui. Ho sempre sentito dire che l'isola di Prince Edward era il posto più bello del mondo e mi immaginavo sempre di vivere qui, ma non ci avevo mai creduto sul serio. È magnifico, quando i tuoi sogni diventano realtà, non le pare? E queste strade rosse sono così strane. Quando siamo salite sul treno a Charlottetown e le strade hanno cominciato a sfrecciarmi sotto gli occhi, ho chiesto alla signora Spencer come mai erano così rosse e lei ha risposto che non lo sapeva e che per carità non le facessi altre domande, perché doveva averne già fatte almeno un migliaio. E suppongo che fosse anche vero, ma come si fa a sapere qualcosa se non la si chiede? E comunque cos'è che rende così rosse le strade? Beh, ecco, io non saprei, rispose Matthew. Beh, questa è una cosa che va scoperta prima o poi. Non è splendido pensare a tutte le cose che ci sono da svelare qui? Mi fa sentire così felice di essere viva. Il mondo è così interessante. Non sarebbe interessante nemmeno la metà di quello che è se sapessimo già tutto, no? Perché in quel caso l'immaginazione sarebbe inutile. Ma sto parlando troppo? Me lo dicono sempre. Preferisce che stia zitta? Basta che me lo dica, io smetto. Ce la faccio se mi impegno, anche se è difficile. Con sua grande sorpresa, Matthew si stava divertendo. Come tante persone silenziose, gli piacevano i chiacchieroni, quando sapevano sostenere la conversazione da soli e non si aspettavano che lui replicasse in continuazione. Ma certo non si sarebbe mai immaginato di gustare a quel modo la compagnia di una bambina. Per dirla proprio fuori dai denti, le donne erano decisamente fastidiose, ma le bambine erano peggio. Matthew detestava il loro modo di passargli vicino, con tutti quegli sguardi timidi e spaventati, come se si aspettassero che lui le mangiasse in un boccone se solo si fossero azzardate a dire una parola. Perché il genere di bambina ben educata da Von Lee si comportava così. Ma quella streghetta lentiginosa era tutta diversa, e benché l'uomo trovasse piuttosto complicato, per la propria lenta intelligenza, tenere il passo con i fulminei procedimenti mentali della bambina, stava cominciando a pensare che, in un certo senso, le sue chiacchiere gli piacevano. Non mi dà fastidio. Oh, che gioia! Ho già capito che io e lei andremo d'accordissimo. È un tale sollievo poter parlare quando voglio e non sentirmi dire di continuo che i bambini si dovrebbero solo vedere e non sentire. Me l'avranno ripetuto come minimo 1 miliardo di volte. Per giunta, certi mi prendono in giro perché uso parole grandi. D'altra parte, se hai grandi idee, ti servono parole grandi per esprimerle, no? Beh, in effetti, messa così, ha senso, osservò Matthew. La signora Spencer dice che io ho la lingua appesa soltanto al centro della gola per quanto la muovo. Ma non è vero, la mia lingua è saldamente fissata a tutto il resto. La signora Spencer dice anche che casa vostra si chiama Green Gables. Le ho fatto un sacco di domande in proposito e lei mi ha raccontato che ci sono alberi ovunque e questo mi ha resa più felice che mai perché io adoro gli alberi e all'orfanotrofio non ce n'era neanche mezzo, a parte qualche misero arboscello striminzito sul davanti, imprigionato da un piccolo steccato imbiancato a calce. Sembravano orfani anche loro, si figuri. E io glielo dicevo sempre: oh, poveri, poveri tesori! Se foste in un grande bosco, circondati da tanti altri alberi come voi, con il muschio e ciuffi di minuscole campanule rosa sopra le radici, e un ruscello poco distante, e tanti uccellini che cantano fra i rami, beh, diventereste più grandi, no? Ma qui dove siete non ci riuscite, vero? Io lo so come vi sentite, alberelli, lo so benissimo. Mi è dispiaciuto molto lasciarli stamattina. È strano come ci si attacca a cose simili, non le pare? Comunque, da qualche parte vicino a Green Gables c'è un ruscello? Questo mi sono scordata di chiederlo alla signora Spencer. Beh, in effetti sì, c'è un ruscello, proprio sotto la fattoria. Oh, fantastico! Ho sempre sognato di vivere vicino a un ruscello, però non avrei mai pensato che capitasse davvero. Non succede spesso che un sogno sia vero, no? Invece non sarebbe carino che succedesse più spesso? Comunque, in questo istante mi sento quasi perfettamente felice. Non posso sentirmi esattamente perfettamente felice perché, beh, secondo lei che colore è questo? La bambina afferrò l'estremità di una delle sue lunghe trecce lucide che si appoggiavano sulle spalle magre. E la mise sotto gli occhi di Matthew, il quale non era certo abituato a prendere decisioni riguardo al colore delle trecce delle signore, ma in quel caso non potevano esserci dubbi. È rosso, no? Disse. La bambina lasciò cadere la treccia con un sospiro sconsolato che sembrò risalire dalla punta dei piedi per esalare tutto il dolore nei secoli dei secoli. Appunto, è rosso, confermò rassegnata. Ecco perché non posso essere perfettamente felice. Nessuno che abbia i capelli rossi potrà mai esserlo. Del resto, le lentiggini, gli occhi verdi e questa magrezza non mi importano poi tanto. Riesco a immaginarmi di essere diversa. Riesco a immaginare di avere una carnagione di porcellana, rosea e delicata, e magnifici occhi viola, splendenti come stelle. Ma proprio non riesco a immaginarmi i capelli di un altro colore. Faccio del mio meglio, mi dico. Adesso i miei capelli sono di un nero favoloso, sono neri come le ali di un corvo. Ma so che il colore dei miei capelli è sempre questo rosso orribile, saperlo mi spezza il cuore, ecco. Sarà sempre il mio cruccio questo, per tutta la vita. Una volta ho letto in un romanzo di una ragazza che aveva un cruccio, il cruccio di una vita. Ma i suoi non erano i capelli rossi, lei li aveva biondo oro, bellissimi, bellissimi capelli biondi che incorniciavano una fronte d'alabastro. Ma che cos'è questo alabastro? Non l'ho mai capito, lei lo sa? Beh, ecco, no, temo di no, farfugliò Matthew, che stava cominciando a sentirsi un po' stordito, proprio come si era sentito una volta da bambino, quando un amico lo aveva convinto a salire su una giostra, a una sagra. Comunque, qualunque cosa sia, deve essere incantevole, perché quella ragazza era stupendamente bella. Lei ha mai provato a pensare come deve essere sentirsi divinamente belli? Beh, no, direi di no, ammise ingenuamente Matthew. Oh, io sì, tante volte. Lei come preferirebbe essere se potesse scegliere? Divinamente bello, intelligente come un genio o buono come un angelo? Beh, ecco, a dire il vero, non lo so. Nemmeno io. Non riesco mai a decidermi, ma non fa poi tanta differenza perché è altamente improbabile che io diventi l'una o l'altra cosa. Di certo non sarò mai buona come un angelo. La signora Spencer dice: Oh, signor Cuthbert! Oh, signor Cuthbert! Oh, signor Cuthbert! Non era questo che aveva detto la signora Spencer. La bambina non era caduta giù dal calesse e Matthew non aveva fatto niente di sbalorditivo. Avevano semplicemente superato una curva oltre la quale c'era il viale. Il viale, come lo chiamavano gli abitanti di New Bridge, era un tratto di strada lungo 4 o 500 yard, completamente ricoperto dai lunghi rami intrecciati di grandi meli che lo costeggiavano su entrambi i lati, piantati anni prima da un vecchio contadino dai gusti originali. Sopra la strada si estendeva un unico fragrante cuscino di fiori bianchi come la neve. Sotto quei rami l'aria era inondata da un crepuscolo color porpora, mentre in lontananza le pennellate del cielo al tramonto splendevano come un magnifico rosone in fondo alla navata di una cattedrale. La bellezza della visione sembrava avere ammutolito la bambina, che si appoggiò contro lo schienale del sedile, le mani sottili strette davanti a sé, il viso sollevato nell'incanto del candido splendore. E anche quando lo ebbero superato e stavano già percorrendo la lunga discesa che portava a New Bridge, rimase immobile e muta, con la stessa espressione rapita. Guardava lontano, il tramonto a ovest, gli occhi persi a seguire visioni immaginarie che sfilavano meravigliose su quello sfondo sfavillante.